Benvenuti a Absolute Beginners, gentili ascoltatori e ascoltatrici, e benvenuto Sasà. Ciao a tutti, ciao Babe, benvenuti a questa puntata. Questa è una puntata, come dire, esemplare dei temi da noi trattati. Parleremo infatti dei Go Go Go Earhart, e sfido chiunque ad averli mai sentiti anche solo nominare. Esemplare in quanto i Go Go Go Earhart, nonostante, come dire, i notevoli doti artistiche, dico bene? Sì, nonostante questo, io per primo non li conoscevo, tu Babe me ne hai parlato, hai detto, Sasà, facciamo una puntata su Go Go Go Earhart, e forse tra gli artisti che dei quali abbiamo parlato solamente le Olympia Splendid erano questo così basso livello di notorietà. Nonostante un gruppo di ragazze finlandesi stanno tuttora suonando, questi ragazzi invece suonavano un po' di tempo fa. Beh sì, è una band che esiste da metà degli anni 90, adesso questo disco, un disco che si chiama Exit UXA, UXA appunto è un disco del 2002, ma già nel 2007 erano già defunti, si erano già sciolti, anche perché no, non hanno mai raggiunto un vero e proprio successo, nonostante, come dire, artisticamente noi pensiamo che abbiano un loro perché. You cut the fire. I've seen her there too. She started through my insides, and honey, she returned. So I joined her gang. It's just my baby and me. Questi Go Go Go Earhart, oltre ad essere, come dire, iconici per l'idea che l'underground non paga, o comunque che puoi anche essere bravissimo artisticamente, ma non c'è alcun tipo di equazione tra il fatto che tu sia bravo, abbia qualcosa da dire, scriva belle canzoni e che tu abbia successo, soprattutto se sei in una piccola etichetta, magari non proprio in una grande città. Ricordiamo che i Go Go Go Earhart vengono da San Diego, California. Ma nonostante ciò, San Diego non è certo una città piccola e band di San Diego famose ce ne erano già state, tipo i Rockets from the Crypt pochi anni prima, famose per modo di dire. Loro un grande successo, abbiamo detto, non hanno mai ottenuto, nonostante fossero messi nel calderone del revival del post-punk new wave che in questo 2002 andava alla grande. Sì, tant'è, vabbè, avevo prima raccontato ai nostri ascoltatori che io non conoscevo questo gruppo e quando l'ho ascoltato, traccia dopo traccia, mi venivano in mente i gruppi che questi Go Go Go Earhart mi ricordavano. Io iniziavo con il primo, che ne so, i Television, oppure i Camper Van Beethoven, oppure i Minutemen, fino a quando mi sono detto, beh, ma non c'è neanche un gruppo che posso dire, ah, questi Go Go Go Earhart si rifanno a questo tipo di gruppo, perché è un bel minestrone di musica underground UK e USA post-punk. Erano gli anni giusti, o quantomeno loro erano in giro da un po', questi suoni più o meno ce li avevano, magari non erano così, forse erano anche più groovy di questi, ma altri gruppi come gli Interpol erano ancora più vicini a, più smaccatamente rifatti, ricalcati su band come Joy Division, New Order, o i Liars, posso ricordare, tutti i gruppi che sono usciti in questo 2002, oppure i Libertines che rifacevano un sacco di, si rifacevano tantissimo ai Clash, più melodici, oppure che ne so, i Radio 4 che poi vennero prodotti dalla DFA, della stessa etichetta degli ACD Sound System, i Check Check Check che si rifacevano al pop group, insomma a tante band post-punk inglesi, ce n'erano una decina o ventina forse. Is right from wrong, sister, we don't care. anche per me conoscere questi Go Go Go Earth e portarli qua da Absolute Beginners è stato un percorso di quelli facili. O meglio, nel 2006 vennero a Bologna, un mio amico col suo gruppo suonava di spalla e me li ascoltai. Poi andai a vederli in un posto, in un palazzo che c'è ancora ovviamente, un palazzo antico dentro un parco a Bologna vicino allo stadio, si chiama Villa Serena. Nel sottoscala di questo palazzo facevano dei piccoli concerti. Ed effettivamente era un piccolo concerto, ci saranno state 20 persone, 30, 10, non lo so, veramente poche. Però mi colpirono tantissimo, tant'è che poi non riuscii a comprare il disco e lo comprai qualche mese dopo addirittura a San Francisco, negli Stati Uniti, perché ovviamente nei negozi italiani era impossibile trovarlo. L'utilizzo di Amazon nel 2006, parlo del 2006, non era ancora così ubiquo, ho detto vabbè, lo cercherò là, e ovviamente da Memba Music, che è un negozio enorme a San Francisco, trovai il disco. Ma l'anno dopo si sciolse, era il 2007, quindi per la stessa missione, mi sembra che anche tu Sassabi abbia detto qualcosa, a un certo punto tirarono i remi in barca perché avevano capito che, come dire, non ce n'era più. Non ce n'era più, infatti mi chiedo quante, forse a San Diego quando loro suonavano i concerti erano più numerosi per quanto riguardava il pubblico, ma forse quando giravano per gli Stati Uniti le stesse persone che tu hai visto a Bologna, di quantità, insomma, anche negli Stati Uniti forse poche decine di persone andavano a vedere i loro concerti, i loro tour. Sì, nel 2006-2007 chiusero baracche e burattini, come hai detto, però tra le pochissime cose che ho interviste, dichiarazioni che siamo riusciti a trovare su internet, quella del loro chitarrista che dice sì, è ora di finire perché non siamo riusciti a farci un living, non riusciamo a camparci, però siamo contenti perché sappiamo che ogni disco, ogni musica che abbiamo registrato è valida. Silence gone. When the silence. Have you heard it all? Have you seen it all? Have you heard it and seen it all before? This way you still wanna stay. And so you found it out, or did you search it out? Show your teeth. So they'll talk about, we'll let them talk about all the things that they don't want, but they can't hide. And to what they say, yes, to what they say, fuck them. I would never want to march in that shit parade. Those are the breaks. Now boy, when did you start to show your teeth? Siete sempre su Absolute Beginners, una puntata che parla di dilettanti che non hanno mai avuto successo. Questi non sono dilettanti, questi a nostro parere sono musicisti sopraffini, si sente che sanno suonare. Sì, e soprattutto si sente che sanno suonare tante cose diverse, sanno suonare, parlavamo prima mentre ascoltavamo Babe, dicevamo che sanno suonare in pulito, sanno suonare in distorto, il cantato è potente, è diretto, arriva. Insomma, la qualità, la bravura non è messa in discussione, mentre forse una cosa che io personalmente pensavo quando prima tu parlavi di altri gruppi coetanei, di questi Go-Go, iHeart, come i Liars, come gli Interpol, che avevano dei riferimenti ben chiari, in testa mia il parallelo Interpol, Joy Division è molto chiaro, mentre forse loro, prendendo un po' di un pochino da tutti quanti, spiazzavano e forse perdono un pochino di identità. Magari anche dal punto di vista commerciale non aiuta avere tante sfaccettature. Assolutamente, è per questo che forse, allora abbiamo detto questo, stiamo ascoltando Exit the USA, UXA, a dirla tutta, del 2002, a cui seguirono seguì un ultimo album nel 2005, prima che il gruppo si sciolse. Io li vidi poco prima che si sciolsero, pochi Un giorni mese prima. prima, hai Sì. detto. E insomma, il loro leader in un'intervista nel sito ai fan dice che era quasi contento che finalmente questa cosa finisse, perché come dice lui, non puoi vivere sul chip per tutta la vita, non puoi sempre cercare di tirare fino alla fine del mese. Delight, I can't Abbiamo parlato di tanti fallimenti, di tanti problemi che hanno avuto queste band, è una storia comune, tantissime band, però anche in questo 2002, l'anno di produzione di questo disco, i Go Go Go Earhart uscivano su un'etichetta indipendente che si chiamava Gold Standard Laboratories di San Diego, appunto, che è un po' sempre sulla scia di quell'approccio futurista, come vogliamo chiamarlo, di innovazione continua che viene forse dal punk, dal post-punk. Cercava di ingaggiare le band un po' più innovative di quel periodo, band che magari a voi saranno sconosciute come i Locust o come gli At The Driving, che poi loro sì riuscirono ad avere successo, o altre band poco conosciute ma comunque che cercavano di innovare partendo dalla New Wave di New York, dalla New Wave britannica, cercando di innestare o di scrivere belle canzoni come hanno fatto questi Go Go Go Earhart, oppure di portare all'eccesso queste tematiche, questi suoni. E la Ghost Under Laboratories, anche essa non esiste più, nel 2007 anche essa chiuse i battenti. Sì, forse tra i gruppi più famosi che produsse ci sono i Mars Volta. E, però sì, tra l'altro mi fa sorridere vedere che su internet troviamo ancora un MySpace di questo gruppo. Aspetta, ricordiamo ai nostri ascoltatori che cos'è MySpace. Ah, ma guarda, vabbè, io l'ho sfiorato quasi MySpace, insomma, è una parola che riconosco, però forse qualcuno che ci ascolta non sa neanche di cosa. È un primo social network. A base musicale. A base musicale, sì. Era nato per promuovere, per far sì che gli artisti si autopromuovessero. Sì, volevo insomma, MySpace, il sito, e www.gogogoairart.com è un sito che a quanto pare qualcun altro ha comprato, perché sembra un sito dove ci sia pubblicità riguardo prestiti o banche. E tu all'inizio della puntata hai usato la parola defunto, insomma la band è defunta, l'etichetta è defunta, il sito è defunto, e noi siamo qua ad ascoltarci questo gruppo di San Diego perché lo teniamo vivo per voi ascoltatori. I love the depression. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Absolute Beginners. Spero che questi Go Go Go Earhart vi siano piaciuti. Sono sicuramente contento di aver rispolverato qualcosa che altrimenti sarebbe andato nell'oblio. Uno dei compiti di questa trasmissione. Sicuramente questi sono dei compiti. Io mi sono divertito. Babbo, questo era un gruppo, come detto, i nostri ascoltatori che non conoscevo assolutamente, ma che ricalca tanti tratti di tante band che abbiamo ascoltato, e mi sono innamorato. Quindi abbiamo quasi ascoltato tutto l'album. Se volete, cari ascoltatori, finitevelo. Mancano due tracce che vi lasciamo un po' come sorpresa personale. Noi invece ce ne andiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Alla prossima. Ciao.